des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme. Io ancora provo qualche stupore quando leggo nei giornali, provo stupore semplicemente per un mio limite, per una mia carenza di dati certi a mia disposizione. Dico, quando trovo nei giornali scritto si segue la pista satanica rispetto a un delitto, rispetto a un fatto di sangue, rispetto a una vicenda ingarbugliata o spesso la sparizione di una persona. Si segue la pista satanica. Ciò mi dà da pensare che razionalmente e concretamente chi fa le indagini, chi sta seguendo appunto dal punto di vista investigativo, giudiziario, un delitto, ha tra le varie opzioni ancora ben valida quella della pista satanica. Guardando qualche dato in rete vedo che in Italia, secondo i dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ci sarebbero 30.000 satanisti. Satanista è un termine vago, un termine può dire tutto e non può dire nulla. In realtà se vogliamo analizzare quello che è il culto del satanismo, esistono un'infinità di fattispecie. Esistono satanisti di superficie, si dicono satanisti semplicemente per fare grandissime e belle ammucchiate in deliziose palazzine delle periferie o dei castelli romani o via dicendo, e quindi il fatto che si vestano di rosso, si mettano le corna in testa, brucino candele nere, usino sinistri simboli presi dai film dell'orrore, è semplicemente la scusa, la fattispecie, la costruzione per poi razionalmente dedicarsi alla crapula carnale. Esistono anche naturalmente delle persone che seguono una visione della vita filosofica particolarmente ispirata a dei principi antitetici a ogni forma di religione, quindi trasferiscono e ammantano il loro pensiero razionalista attraverso una sorta di forza vindice della ragione, come diceva appunto Carducci, in questo mélange di spirito razionalista, di antitesi ad ogni forma di religione, di pensiero clericale e via dicendo. Ma questa è ancora un'altra cosa. Poi esistono delle forme, ma sto semplicemente raggruppandole in maniera approssimativa, molto più legati alla contemporaneità, legati a una forma acida di satanismo, che in realtà il satanismo viene visto soprattutto in giovani legato a mode correnti, a una certa visione dark dell'esistenza, a una maniera di vestirsi, a delle organizzazioni tribali delle aree giovanili, a un certo tipo di musica, all'uso naturalmente delle droghe. Questi sono questi che si vedono vagolare molte volte per le nostre città in alcune zone particolari, pallidi, vestiti con strani pentacoli al collo. Anche questi molte volte, più che sacrificare alla forza di Satana, in realtà si fanno dei grandi cannoni o dei grandi beveroni di sostanze stupefacenti, finisce lì. Poi naturalmente ci sono a tutti gli effetti dati concreti accertabili di episodi come appunto le bestie di Satana e tanti altri episodi in cui la cronaca si è legata a persone che hanno trasformato in attività delittuosa, in attività scellerata, quella che era all'inizio una pratica fantasmagorica di culto a Satana. Beh, le cronache, devo dire, sono piene di questi episodi. Potrebbe esserci un omicidio rituale dietro il cadavere mutilato di una donna trovato in un campo nella zona ardeatina a Roma, oltre il grande raccordo anulare. Secondo quanto si è appreso, alcuni organi interni sarebbero stati asportati. A scorgere il cadavere un passante che ha subito allertato la polizia. Nessuna lesione sul giubbotto che Yara indossava e pochissime tracce di sangue. Un fatto che spinge chi indaga sul delitto a valutare con una certa prudenza l'ipotesi di un rituale satanico o mistico rilanciato ieri da un sito internet. Per gli investigatori, i tagli trovati sulla schiena della vittima potrebbero essere solo una casualità. I segni non riproducono un disegno preciso, ma due linee intersecate che ricordano... Due episodi di cronaca recentissimi, l'uno quello del cadavere depezzato, è stato trovato appunto il giorno dell'8 marzo, proprio fatalmente, di una donna tagliata a pezzi in un quartiere periferico di Roma. Si è detto di tutto e molte volte le contaminazioni che provengono dalla fiction sembrano elementi certi, elementi di indagine, strafatta a pezzi con una motosega, come appunto in un filone fortunatissimo di film dell'orrore. Poi sono stati tolti viscere, è stata portata in giro con un fil di ferro come se fosse una valigia. Questa mattina i giornali, l'ultima deduzione, probabilmente un collezionista d'organi. Quegli organi potrebbero stare in un freezer, i pezzi mancanti di questa donna, addirittura nello stomaco di questa persona che se l'è mangiati. È il caso della povera bambina di Membrate, Yara Gambirasio. Anche lì si è molto elucubrato, prima ancora che l'ottima Cristina Cattaneo consegnasse pubblicamente i risultati delle sue analisi, si è fantasticato su segni fatti a X, fatti in croce sulla schiena, dei simboli runici si è addirittura detto. Ecco quello che questa mattina vorrei capire, assieme alle persone che avrò con me in studio e assieme al vostro illuminato parere, che potrete senz'altro fornirmi chiamando all'800 24 0024, quanto esiste una sorta di fantasmagorica maniera di colorire gli episodi più indecifrabili della cronaca e quanto in realtà esiste una seria accertata fattispecie satanista legata a fatti di sangue in Italia. 800 24 0024. Oltre 600.000 adepti in Italia, i soli gruppi satanici sono ormai 8.000 e contano movimenti magici, occultistici, orientaleggianti, satanisti o di matrice pseudo-cristiana. La ragazzina era sottoposta ad un vero e proprio protocollo di iniziazione che prevedeva una scaletta settimanale di prestazioni sessuali ordinate e gestite, si fa per dire, da una triade di spiriti che il falso stregone sosteneva albergassero in lui, Satyricon, Triton ed Edon, e che pretendevano attenzioni speciali di volta in volta sempre più perverse. Tutto veniva svolto attraverso un protocollo di riti esoterici. Vincenzo Mastronardi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a voi. Un nostro caro ospite, Vincenzo Mastronardi, criminologo, docente di psicopatologia forense all'Università La Sapienza di Roma, autore del volume Sette sataniche, dalla stregoneria ai messaggi nella musica rock, dai misteri del mostro di Firenze alle bestie di Satana, edizioni Newton Compton. Quindi lei ha approfondito attentamente il problema. Qual è la sua prima risposta d'impeto alla mia domanda? Esiste in realtà una percentuale di componente fra virgolette satanica nei delitti di sangue soluto e insoluto in Italia, o semplicemente molte volte è una coloritura giornalistica? No, assolutamente dobbiamo chiarire all'ascoltatore che quelle che si professano sette sataniche in realtà non sono tali, ma dietro la presunta setta satanica o i rituali, i presunti rituali settari, c'è sempre una volontà di egemonia, di affermazione del proprio potere, vicariamente inteso naturalmente, e con aggiunta di tutto ciò che ruota attorno al mondo drogastico, quindi della droga e del sesso. Questi presunti convincimenti, o questi convincimenti perversi, ovviamente fanno capo a delle persone di facile uncinamento, di facile influenzabilità. In un momento è stato visto di vuoto di potere logico, critico, analitico, affettivo, lì dove non vi è appunto un soddisfacimento affettivo, parlo di defiance esistenziali, crisi, depressioni, ecco, lì è un momento particolarmente... Quindi si attinge comunque un elemento forte, comunemente riconoscibile, che è quello del demonio. Io penso che in questo ci aiuta anche il cinema, la fiction, dall'Esorcista al Rito con Anthony Hopkins, sì, l'ultimo film, che di questo si parla più o meno. Quello che bisogna assolutamente dire è che in realtà scimmiottano il satanismo, sono pseudo satanisti, satanisti acidi cosiddetti, quindi in sintonia con Introvigne ed altri autori con cui ci siamo andati a frequentare, e non dimentico mai che sono psichiatra, formatore degli esorcisti da da un po' di anni e quindi ho sempre vissuto, mi confronto sempre con i miei demonologi di fiducia, come li chiamo io abitualmente. Ma io una volta feci una trasmissione con un sacerdote illuminato a questa radio, mi disse che gli esempi concretamente accertati di possessione demoniaca, detta proprio da un sacerdote, sono una percentuale minima rispetto ai tantissimi casi. Minima. Possiamo dire che il 99% sono soltanto pseudo satanisti, ma ci credono, loro convincono se stessi della bontà del loro credo, per cui entrano nel delirio vero e proprio, non già con allucinazioni o non necessariamente con allucinazioni, ma delirio vero e proprio, cioè un convincimento tenace, così tenace da così costituire tutto il loro mondo, tutto il proprio mondo. Ecco, se da noi... da quest'area limacciosa, dottor Mastronardi, viene poi fuori quella componente assassina, delittuosa, criminale, che poi spesso realmente troviamo accertata. Eh sì, ahimè sì, perché come formula di dimostrare il proprio potere hanno bisogno, hanno necessità di così di comunicare innanzitutto a se stessi, ma poi agli altri, a quelli che potrebbero essere i presunti affiliati o comunque i futuri affiliati o gli affiliati stessi, estremamente controllo del potere sulla loro vita, sulla loro esistenza. Quello che dobbiamo considerare, questo serve moltissimo, che uno degli strumenti che loro utilizzano è la love bomb, la bomba d'amore, cioè la somministrazione massiva affettiva, per cui qualunque cosa capiti, di qualunque cosa hai bisogno, ricorri a noi notte e giorno, siamo a tua disposizione. Questo vale anche per la componente cosiddetta satanista, questo pensavo più legato alle sette di segno contrario, quelle di ispirazione religiosa, di questa sorta di ambiente irenico in cui tutti si vogliono bene, in cui c'è un esempio, un'energia positiva e via dicendo. Ecco, no, questo voglio dire è un po' comune naturalmente, non dimentichiamolo, il confine è nel prevaricare i limiti del codice penale, lì dove con ben precisi articoli del codice penale che si vanno appunto a prevaricare, riusciamo a vedere che si compiono veri e propri reati, quali atti di libidine, atti di libidine violenta, sequestro di persona, circonvenzione di persona incapace, non già necessariamente incapace in quanto lei incapace, ma incapacità etero indotta da farmaci, da droga, quindi li rendono incapaci e quindi la circonvenzione è dove è messa. Ecco, professor Mastronardi, solo un istante lo far parlare l'ascoltatore Antonio, che è un elemento in più rispetto a quello che noi diciamo. Antonio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Senta, lei ha fatto bene a citare la droga, la coca, solamente che io l'avrei messo proprio al primo posto, perché le dirò che ad uno come me che ha più di 70 anni risulta molto chiaramente che corrisponde proporzionalmente l'ingrandimento di questi fatti così gravi al fiume di droga, di cocaina, eccetera, che ormai percorre l'Italia. Quindi la parola satanica mi sembra di struttura superstiziosa, insomma, quasi teologica al contrario, perché in fondo la vera peste bianca è proprio questa droga che naturalmente spinge queste persone a degli atti terribili. Sì, ma in questo sono d'accordo, che ormai si ha una sorta di residuo lessicale fatto, diciamo, satanismo, quando in realtà ha poco a che fare con lo storico satanismo, quello degli Aleister Crowley, dei veri profondi maghi neri che adoravano il demonio e studiavano rituali fantademoniaci. Professor Mastronardi, la diffusione popolare, diciamo, della cocaina favorisce l'insorgere anche di questa sorta di mistificazione del satanismo, che dire mistificazione del satanismo sembra proprio un controsenso. Vanno di pari passo. Io vorrei rispondere all'ascoltatore molto attento e ovviamente attento, direi appunto proprio a quelli che sono, a quelle che sono le piaghe sociali e attuali, che si sicuramente se tutti quanti, coloro che assumono droga, però questo per onestà scientifica, certo, e intellettuale, se tutti quanti coloro che assumono droga si dedicassero ai rituali esoterici o satanici, avremmo un mondo pieno di satanisti o di presunti tali. In realtà la droga comunque c'è, perché la droga riesce così a obnubilare quelle che sono le coscienze morali, quello che è il superego, quella che è la coscienza morale interiorizzata, ma non già è la responsabile prima. La responsabile prima la intravederei in un narcisismo primario patologico, in un narcisismo di Kernberg, l'autore che se n'è più occupato, un narcisismo maligno, così come lo definiva lui. E questo è quello che è l'elemento che dobbiamo non già così guardarlo asetticamente impotenti, ma chiedendoci come possiamo in futuro, ora, da ora in poi, andare a prevenire. Beh, possiamo farlo nel momento in cui realmente offriamo ai giovani piste comportamentali alternative più gratificanti e di affermazione personale. Quindi, professor Mastronardi, mi sembra di capire che in realtà l'aspetto satanico si attinge a questa sorta di antiliturgia satanica, perché è un non valore ormai storicamente condiviso, sedimentato e tutto, ma alle spalle non c'è nulla di tutte le componenti psicologiche, culturali che hanno da sempre alimentato il satanismo. Una forma di modernissimo narcisismo esasperato che si veste di satanismo perché è la cosa più cattiva e più potente che ha a disposizione in questo momento. Complimenti, ha tradotto come sempre bene, benissimo. Anzi, tutto quanto quello che è il sapere è esattamente il nocciolo di tutto quanto ciò che ruota attorno. Ma guardi, anche noi con il demonologo Moreno Fiori, un domenicano, abbiamo esaminato anche tutti i rituali del Sud America, il Palo Mayombe e quant'altro, e realmente c'è una necessità di attingere a una forza superiore, però che non sia quella classica, una forza superiore più furba di quella ortodossa, quindi Satana o chi per lui, che riesca in quel caso a dare forza, a dare egemonia, e questo è l'elemento primario. Sì, poi mi rendo conto che per un prete sia doppiamente complicato, perché un uomo di chiesa che poi ha la percezione, la necessità, anzi il dovere di ostacolare e combattere anche il satanismo nella sua forma classica, si trova di fronte a una doppia seduzione del grande seduttore, perché Satana, visto dal punto, mi prendo impropriamente il punto di vista di un prete, in questo panorama ci sguazzerebbe meglio che mai. Ah beh, naturalmente sì. I sacerdoti, lei sa bene, gli ascoltatori lo sanno benissimo, che i credenti non possono rifiutare l'idea che esiste, è chiaro, il Satana, diavolo. Che esiste il diavolo. E detto questo, è chiaro che l'accettazione della eterna antinomia tra bene e male, quindi il riuscire anzi a fomentare questa lotta intelligente e intrisa di vero e proprio credo cristiano, o comunque del credo appagante, quello positivo, non quello negativo e necrotizzante, beh, questo è una lotta che fomenta anzi le coscienze cristiane, proprio ben pronte a combattere quella serena, quel sereno impegno contro le forze del male. Professor Mastronardi, io la saluto, siamo arrivati alle informazioni della bozza. Buona giornata e ci sentiamo dopo l'informazione. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La squadra mobile di Firenze ha eseguito 23 perquisizioni personali, recuperando così materiale cartaceo ed informatico di chiara ispirazione satanista. Non solo, in un'abitazione i poliziotti si sono trovati di fronte a due veri teschi. Il gruppo si ritrovava in un collegio abbandonato di Prato o in vecchi cimiteri, comunque in luoghi sconsacrati. Danilo Speranza, di 62 anni, era il guru di questa setta, è finito in manette a Montesacro, a Roma, in una delle sue abitazioni o comunque delle case che aveva a disposizione. Le accuse nei suoi confronti sono abusi sessuali su minori, bambine di circa 10-12 anni e truffa. 800-24-0024, stiamo riflettendo su questa componente satanica, molte volte viene sollevata in pezzi di cronaca legati a episodi delittuosi, poi come ci dice l'ascoltatore Vant che scrive su Facebook, la maggior parte delle volte è semplicemente scritto che non si hanno idee precise sui motivi, su alcune tracce concrete rispetto a un delitto. Dice, in realtà, dice, il satanismo viene chiamato in causa tutte le volte che non si sa ancora che strada a fare per prendere le indagini. Invariabilmente poi si scopre che in realtà non c'entrano nulla. Sarebbe interessante che le persone si interessassero anche alla chiusura delle stesse, per vedere poi quanti di questi casi sono effettivamente imputabili a quell'ambiente. La risposta è nessuno. Due soli casi in cui si è accertato che la cosa nominalmente aveva qualche afferenza sono quelli di Chiavenna e delle bestie di Satana. In entrambi i casi è stabilito si trattava semplicemente di persone deboli che non sapevano di cosa parlassero, o non di esoteristi o satanisti. Tende a fare una distinzione il nostro ascoltatore, che mi sembra corretta, tra il satanismo come una pratica che affonda le radici comunque in forme di anticulto certificate con una loro tradizione, con una loro ritualità, e un satanismo da manualetto comprato nelle librerie della stazione che serve semplicemente per mettersi intorno un po' di teschi, un po' di simboli macabri, un po' di locandine di film che parlano di satanisti, per poi riuscire con questo a captare elementi di persone deboli. Qualcuno potrebbe dire tra qualche giorno che anche l'ultimo episodio di cronaca di cui oggi si parla nei giornali romani, di un attore di fiction casalinghe, un personaggio tranquillo, un po' pelatino, con gli occhialetti, con la barbetta, un tranquillo geometra, sembra che in realtà a casa avesse una panca da sollevamento pesi che usava per stenderci la fidanzata, che marchiava fuoco. Ci sono foto di manette, attrezzi vari di tortura. Perché? Perché era uno stalker, per tenere soggiogata questa donna la marchiava a fuoco, e questa finalmente si è decisa a denunciarlo. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Sì, mi sente? Sì. Niente, io volevo intervenire per introdurre il tema del simbolismo di queste sette. Io trovo che in molti casi ci sono delle sette che prendono a prestito dei simboli addirittura prepagani, e lo fanno così come anche la Chiesa Cattolica. Volevo portare l'esempio della croce, perché la croce, che è un simbolo che molti associano alla tradizione ebraico-cristiana non è, perché se uno va a guardarsi esistono delle croci anche in graffiti, diciamo, preistorici. Questo non toglie nulla. L'orizzontale è semplicemente simboleggiare il femminile, quello verticale il maschile. Sì, vabbè, il simbolismo della croce sono stati scritti i libri, tra cui il più noto è quello di René Guénon. Quindi, oltre a farci questa lezioncina, cosa vuole dire? Sì, volevo dire anche che in qualche modo il bene e il male si reciprocamente si legittimano. Quando io una cosa che mi ha sempre molto colpito è ad esempio il dialogo che c'è in Giobbe tra Satana e Dio. Io non vedo lì la lotta tra Satana e Dio, ma vedo una legittimazione reciproca. E con questo? Con questo? Le domando, ho capito, lei sta facendo sfoggio di conoscenze, di simbolismi, ma rispetto all'argomento di questa mattina, ragazzi che assumono simbologie che non appartengono nemmeno a un approfondimento meritorio di questa parola, come sta facendo adesso lei, semplicemente per mascherare un loro patologico narcisismo che porta alla necessità, alla volontà di dominare altre persone, e questo può portare addirittura a azioni violente, azioni sadiche, azioni delittuose. Quello che cerchiamo esatto, di capire io questo... penso che le azioni violente, sadiche e delittuose siano dovute in molti casi alla mancanza di conoscenza. Io penso che una persona che... Secondo lei una persona scusi, che si riempie la casa di teschi, che va in giro a rubarosse cimiteri, che fa mucchiate fantasmagoriche sotto delle nere insegne, ha tempo, voglia o strumenti culturali per fare degli approfondimenti sull'aspetto simbolico? Ma usano il demonio perché, come abbiamo già detto prima, è la cosa più forte a disposizione. Se funzionasse meglio userebbero gli UFO o i manuali di Vissani della cucina per fare le loro stesse operazioni. Grazie. Guido, buongiorno. Buongiorno. Sì. Sì, dunque, per quanto riguardava l'argomento, credo che potrebbe essere utile suggerire che in realtà ci sono due facce della stessa medaglia. Voi avete parlato degli aspetti riguardanti il satanismo, però in effetti le cosiddette sette che utilizzano proprio da sfogo al narcisismo del guru, delle persone che sono deboli e quindi possono facilmente cadere nella loro trappola, sia psicologica che morale, in realtà non sono soltanto quelle sataniche. Sì, ma è uno spettro vastissimo, anche... però scusi, se no il tempo di discussione è quello. Questa mattina lo limitavo al fatto che io mi trovavo ancora sorprendente che un elemento così arcaico, così lontano dalla nostra civilizzazione, ancora fosse un elemento costante nei rapporti di polizia o nelle letture giornalistiche di fatti di cronaca. Se poi vogliamo parlare delle sette, dei principi che muovono comunque le aggregazioni umane in cui ci sono dei leader e ci sono dei succubi, può andare bene questo. Ma oggi proprio questo, invece l'elemento su fermarmi è questo. Non faccio distinzioni di merito se sono peggio o meglio i satanisti dei i bambini di Dio e via dicendo. In questo momento non mi interessa, non è l'argomento di oggi. Oggi quello che mi interessa sapere è il recupero di un aspetto simbolico così lontano poi dall'attualità, perché poi se le pratiche religiose fossero così diffuse, così intimamente, profondamente sentite quanto è emotivamente facile la suggestione satanica, potrei anche capirlo, ma non essendoci questa controparte non me lo spiego. Ma forse può darmi una mano a capirlo meglio Gianandrea Serafin. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lo ricordate, Serafine è stato nostro ospite, è un sociologo, collabora con l'ONAP, che è l'Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici. Da 2 anni studia il fenomeno delle sette sataniche. Vediamo se ci aiuti un po' a definire in maniera concreta, coerente e soprattutto attuale quello a cui stiamo cercando di girare attorno. Se no parliamo di tutto e non aggiungiamo nulla a quello che gli ascoltatori si aspettano da noi. Sì, intanto mi preme dire che insomma il discorso del fascino del male è qualcosa di molto antico, qualcosa di legato alla storia dell'essere umano. Il problema, per scendere all'attualità, è che questo male viene in qualche modo normalizzato, si assiste a una sorta di normalizzazione della devianza. E un altro aspetto interessante riferito al discorso delle sette, soprattutto nell'ambito del satanismo, è oltre ai fattori aggreganti che abbiamo visto prima, sesso, musica, droghe, che servono in qualche modo a mantenere la coesione sociale del gruppo, a sostenere le dinamiche all'interno del gruppo, quindi la differenza fra in-group noi e out-group loro, quindi una sorta di distacco anche dalla società, dobbiamo anche citare... In questo caso, Gianandrea, in questo caso il demonio è il nostro protettore, ma anche il nostro terribile padrone. Su questa dinamica di paura di devozione anche nei confronti del demonio, che può essere visto come bene ma anche come male, insomma a seconda del tipo di satanismo. L'ha citato lei prima, che ci sono varie correnti di satanismo: razionalista, occultista, acido, che è quello legato proprio all'ambito giovanile, e luciferismo, che è quello un pochettino più elitario. Ci fermiamo un istante, ridiamo la linea all'informazione del traffico, poi mi aspetto da Gianandrea Serafin una disanima ben precisa, esatta di quello che oggi è nelle sue raffigurazioni contemporanee il satanismo. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Nella provincia di Varese, nel 1996, gli appartenenti ad una setta si uccidono tra di loro. E come in un gioco ad eliminazione, i più forti uccidono i più deboli. Questa è la storia delle bestie di Satana. ma questa è anche la storia di adolescenti in cerca di identità, che hanno paura di affrontare il mondo e che vogliono diventare grandi per una via, senza speranza. 800240024, questo è un ricordo delle bestie di Satana, uno degli episodi in cui comunque realmente, concretamente, l'apparato fantasmagorico, ideale, folcloristico si è poi concretizzato in un'organizzazione in cui poi i delitti li facciano veramente, si ammazzano veramente fra di loro. È stato anche lungo, difficile, laborioso risalire poi a tutto quello che era accaduto nel circolo di questa setta di ragazzi. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei mi coglie proprio, diciamo, l'argomento sulle bestie di Satana. Io avevo chiamato semplicemente per una chiarificazione sul concetto di satanismo, visto che mi definisco tale e conosco l'argomento da oltre 20 anni. Ma lei è un satanista, diciamo, storico, di quelli veri? Sì, il satanismo non è una religione, non sono stupidaggini, il diavolo è un archetipo. Sì, sì, ma io guardi, la distinzione l'ho fatta, dico, rispetto al satanismo di matrice storica, quello di Aleister Crowley, di quei dei grandi maestri, diciamo, degli evocatori di demoni, oggi è un'altra cosa, poi vuoi un altro discorso? Oggi è un'altra cosa perché oggi siamo nel 2011, probabilmente quando ho iniziato io, nella fine degli anni 80, c'erano ancora degli altri valori, il mondo era diverso, non c'erano i cellulari, non c'era internet, non c'erano modi di comunicazione, non c'erano social network. Ma Satana è tutto contento di queste cose, però scusi Francesco, sì. Più c'è confusione, c'è caos e più è il regno di Satana. Non so, nella mia ignoranza lo dico. Ma in realtà sì, il discorso del caos e del nichilismo del caos è abbastanza complicato da affrontare. Io volevo solo dire questo e mi riallaccio anche alle bestie di Satana perché sono un musicista. Allora, facciamolo, guardi, faccia un'altra cosa, parlare di quello che abbiamo già parlato è inutile. Ci dica esattamente, descriva il vero satanista, quello doc, perfetto. Così facciamo allora, l'estinzione. Il satanismo, come ha anticipato lei, il satanismo è stato, diciamo, il precursore è stato Crowley, sì, ma la filosofia di vita è quella di Anton LaVey, fondatore della Church of Satan negli Stati Uniti nel 66. Ecco, ma che fate? Ma no, io innanzitutto ho frequentato la setta, il satanismo è una cosa prettamente individualista. Ah, non ci sono le messe nere, le ingruppate? Ma le messe nere sono delle... Allora, il satanismo è una filosofia di vita in cui l'unico Dio è l'uomo, l'unica legge è fai ciò che vuoi e l'unico obiettivo della vita è quello della gratificazione personale in tutti gli ambiti. Sì, questa è la legge del Telema che diceva Crowley. Ecco, sì. La legge di Telema molto simile. Sì, ma lui si ingruppava dalla mattina alla sera con uomini, donne e animali. Allora la gratificazione, tutto ciò che porta alla gratificazione è concesso, è l'opposto di ciò che ci impone il monoteismo giudaico, cristiano, islamista. Ma allora perché tirare in ballo, scusi, perché tirare in ballo Satana? Che c'entra Satana con questo? Ma no, Satana è un archetipo, è l'antagonista, è l'antagonista a una certa visione del mondo. Il satanista cerca di, ecco per il discorso anche di prima dell'elite, no? Si cerca di esternarsi da un certo discorso massificato che porta, sì, ma che fate di diverso da un altro essere umano? Allora, innanzitutto che facevamo, perché quando ho frequentato più persone, io sono molto individualista, misantropo, quindi sinceramente ma il fattore età, il fattore età con chi la pensa come me limita, quindi, la pratica del satanismo, cioè a una certa età si va in pensione. La pratica del, le spiego la parte ritualistica, lei forse mi sta è quello, sì. Allora, la parte ritualistica, lei sa bene che essendo una struttura, LaVey era anche una persona molto intelligente, molto ironica, quindi la filosofia di vita che lei può leggere sulla la Bibbia satanica, sì, insomma, ma il libro non dica in concreto che la legge... parte ritualistica è una parte che serve come aggregazione di quella elite. Ma che e si quindi fa? C'è un certo rituale, c'è una certa ce lo dica, c'è una è molto classico, lo sanno tutti, col caprone, la donna nuda, queste cose qua. Bene, sì, esattamente, c'è un caprone, non è un caprone vero, c'è di un peluche, uomo che indossa una maschera, ci sono dei rituali, delle preghiere, delle invocazioni sempre portate alla gratificazione dell'uomo. Però la donna, dopo c'è una donna, sì, c'è una donna altare perfettamente consenziente, certo. E basta, quindi nessuno ha toccato mai nella storia di rituali satanisti un animale o un essere umano. Le bestie di Satana sono bestie e basta, nel senso che erano dei ragazzi tossici. Io conosco bene quell'ambiente, io ho conosciuto i personaggi principali del black metal norvegese di persona, quelli che hanno bruciato chiese in Norvegia, che sono andati in prigione, omicidi, non si fa, però, situazioni molto complesse, non so se lei però guardi, no Francesco, no, se no non faccio il tempo a parlare l'ospite. È chiaro, lei ha fatto una distinzione perfetta. Il satanista classico, quello vecchia maniera, dice: noi al massimo mettevamo una donna nuda stesa e facciamo un rituale, il caprone era finto, simulato, una maschera, un pupazzo, e dicendo, e tutt'al più, aggiungo io, immagino alla fine ci congiungevamo more pecorum con questa donna e finiva così. Bene Francesco, allora riprendiamo con Gianandrea Serafin, sociologo. Abbiamo questa giusta e lecita distinzione, entriamo però in quello che è l'aspetto nuovo, l'aspetto moderno, l'aspetto diciamo acido del satanismo, visto che quello classico, l'abbiamo visto, è ben definibile. Sì, ho sentito un po' anche una mescolanza fra tipologie di satanismo. Il nostro ascoltatore ha mescolato un po' quello che è satanismo razionalista, che in realtà nasce molto prima di Aleister Crowley, nasce dalla teosofia. Certo, Madame Blavatsky. Molti secoli prima, mescolandolo con quello luciferista. Per fare un esempio proprio concreto, possiamo ricordare il film Eyes Wide Shut. Certo, sì. Molto famoso, quello è un po' la rappresentazione del satanismo di tipo luciferista. Sì, una maniera dei ricchi di farsi dei grandi scambi di coppie, grandi ingroppate sotto un'aura. Quella nasce dall'importanza del rapporto sessuale come fonte di energia. Cioè, c'è tutta anche una simbologia, tutta una serie di... Ma quello che mi domando, se fino ad oggi, onestamente, avere rapporti fisici con persone è la cosa più semplice del mondo, ma c'è bisogno di tutto questo apparato per poi mettersi in una casa e saltarsi uno addosso all'altro? Diciamo che fa un pochettino parte del credo del satanista. Io capisco, nell'Ottocento, in tempi in cui era un po' più... è difficile da comprendere per noi, che insomma abbiamo una visione diversa delle cose, per loro è un pochettino, fa parte del gioco. Poi per arrivare proprio al satanismo, quello che possiamo definire come fai da te, quello acido, quello legato più alle perversioni, all'uso di sostanze psicoattive, eccetera, anche lì sono un po' difficili da inquadrare, perché in qualche modo è un satanismo non satanismo, cioè qualcosa di campato in aria, qualcosa che non ha delle profonde conoscenze anche di quello che è stato scritto sul satanismo, ma è un qualcosa di, ho detto prima, proprio fai da te. Nel senso che, diciamo, oggi è abbastanza facile, basta andare un po' per siti internet, guardare qualche film specializzato, si sa sì, tutto. Sì, la raccolta di informazione avviene proprio così, navigando nei vari siti internet e in qualche modo facendosi trasportare da quello che è il gruppo dei tali, del gruppo degli amici, che può essere dalla band di rock. E quindi, secondo te, Gianandrea Serafin, alla fine, questo elemento, diciamo, di matrice giornalistica, che viene attribuito molte volte nei delitti inspiegabili, tipo la croce sulla schiena della povera bambina bergamasca, che poi non è una croce, poi dicono un simbolo runico e via dicendo, rientra in questa sottocultura delle sottoculture a cui si alimenta molte volte il mondo dei giovani? Ma io credo che insomma ci sia anche un po' un problema di quello che abbiamo detto prima, essere il fascino del male, un voler in qualche modo giustificare qualcosa che in realtà è molto più, ahimè, banale. Io sinceramente ho visto quello che lei ha detto, quel simbolo nella schiena della povera Yara, sinceramente non credo che possa essere associato a un delitto di matrice satanica. Penso che sia qualcosa di molto più brutale nella sua efferatezza. Grazie Gianandrea Serafin, grazie a tutti gli ospiti, ci sentiamo domani. Alors tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.